Signora Mussolini, vogliamo chiarire una volta per tutto, se voi ci giocate con questa cosa, lei è Vespa, ci gioca solo lei, c'è qualcosa di vero, cioè, la parentela tra Bruno Vespa e Mussolini. Allora, io potrei dire una cosa e la dico perché quando vado a Porta a Porta e vedo le posizioni di Vespa, che lui assume la postura, l'atteggiamento del viso, non c'è niente da fare, ma anche in alcune foto, in alcune inquadrature è simile. Poi certamente non sarà vero, però è una cosa singolare, devo dire la verità. Ha tante caratteristiche, le orecchie, quelle sono identiche, e ha tante cose, manca solo l'esame del DNA. Ma questa cosa è il tratto della ricesso. Lei ridendo, però mette in discussione tutto quello che sostiene. Cioè, un gioco oppure effettivamente qualcuno ha fatto delle ricerche? Nessuno ha fatto delle ricerche, povero Vespa, però è molto simile. Cioè, lui rispetto a, se mi dovessero dire, potrebbe essere Vespa, quindi mio